Rassegna Stampa Europa. Buongiorno da Cristina Carpinelli, ben ritrovati alla rassegna stampa europea. Testa a questa rassegna c'è sicuramente il tema dell'energia. La notizia è che il target europeo proposto dalla Commissione europea di consumo di energia da rinnovabili di almeno il 27% per il 2030, lo ha detto il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso. Un tema, questo delle rinnovabili, ma dell'energia in generale, che ha popolato i giornali di interviste e commenti. E allora noi abbiamo scelto in qualche modo gli articoli che ci sono apparsi più critici in un senso e nell'altro, e andiamo a leggere Repubblica di giovedì 23 gennaio. L'Unione Europea vara il pacchetto energia, tagli alle emissioni ma soft, i gas serra saranno ridotti del 40% entro il 2030. Questo scrive nel titolo Repubblica. Leggiamo l'articolo. Preoccupata di non danneggiare la competitività della propria industria già provata dalla crisi, la Commissione europea ha presentato ieri il nuovo pacchetto energia, indicando obiettivi relativamente modesti di riduzione delle emissioni nocive e di potenziamento delle energie rinnovabili. I nuovi traguardi da raggiungere entro il 2030 saranno un taglio del gas effetto serra del 40% rispetto ai livelli del 1990 e una percentuale di fonti di energia rinnovabili pari al 27% della produzione complessiva. Si tratta di obiettivi in linea con la curva di riduzione già esistente, che non dovrebbero richiedere un significativo impegno supplementare. L'Unione Europea ha infatti già ridotto le proprie emissioni del 18% e senza ulteriori misure raggiungerebbe un taglio delle emissioni pari al 32% nel 2030. Lo sforzo aggiuntivo è dunque pari ad un modesto 8%. Quanto alla quota di energie rinnovabili, spiega la Commissione, l'obiettivo del 27% non dovrebbe porre seri problemi perché sarà il risultato naturale dell'impegno a ridurre le emissioni nocive. Nonostante la scarsa ambizione, il nuovo pacchetto energetico ha dovuto superare forti resistenze in seno alla Commissione e non avrà certo vita facile quando sarà sottoposto all'esame dei governi nazionali, che dovrebbero approvarlo al prossimo vertice del 20 e 21 marzo. E in effetti i pareri su questo pacchetto energia sono piuttosto negativi. Vi leggiamo infatti l'articolo a firma di Federico Rendina, pubblicato sul Sole 24 Ore, il titolo: pacchetto Unione Europea su clima ed energia quando la flessibilità allontana gli obiettivi. Obiettivi europei ai quali tutti gli Stati dovranno concorrere unitamente, ma ciascuno con le sue ricette e le sue proporzioni, all'insegna, ripetono più volte Barroso e commissari europei, di una larga flessibilità. Flessibilità, seppur con qualche regola comune, per partecipare alla corsa verso l'obiettivo vincolante del 40% di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030. Flessibilità per il ricorso alla moderna ma ambientalmente invasiva tecnica dello shale gas per ricavare prezioso metano aggiuntivo, contribuendo anche così a ridurre la crescente dipendenza europea dalle fonti energetiche altrui, e grande flessibilità anche nella corsa verso la massima efficienza dell'uso dell'energia, che in questo caso sarà al massimo un cammino se non un lento incedere, visto che la Commissione ha persino evitato di aggiornare le mete, relegandole al più classico dei provvederemo. Prudenza, grande prudenza, forse giustificata dall'acceso dibattito sulle alchimie energetico-ambientali, quali limiti e vincoli, come spartirli tra i paesi, come assicurarne il rispetto, come sanzionare le falle, che ha tenuto banco fino all'ultimo e che evidentemente continua a produrre dubbi e questioni irrisolte, tant'è vero che più di un analista storce il naso in nome delle politiche vincolanti negli obiettivi ma flessibili nei mezzi e pesino nelle proporzioni a cui gli stati devono contribuire. Si delinea uno scenario davvero poco gestibile. Quindi questo quanto ci scrive in tema di energie e industria il Sole 24 Ore. Lasciamo le rinnovabili invece e vediamo come a livello europeo ci si sta muovendo sui temi di politica di allargamento, un argomento anche questo molto trattato in questa settimana. Ovviamente uno degli argomenti focus, quelli più trattati, è quanto sta accadendo in Ucraina, la cronaca degli scontri, certo, i tentativi di mediazione europea, ma soprattutto, e questo è quello che abbiamo cercato di darvi, il giudizio e il commento di quanto accade da parte degli intellettuali. Allora inizio a leggervi un articolo pubblicato giovedì 23 gennaio da Repubblica, il cui titolo è La terra di nessuno. Ovviamente stiamo parlando di Ucraina. La causa primaria di questa esplosione, quindi ci si riferisce alle violenze di piazza, di strada a Kiev, la causa primaria di questa esplosione sono una serie di leggi che si possono definire eufemisticamente illiberali e perfino grottesche, se non fosse che stanno portando l'Ucraina sul piano politico verso quella che Putin ama definire una democrazia controllata e sul piano dell'ordine pubblico verso un vero e proprio stato di polizia, perché sono state proposte, approvate in 3 giorni da un Parlamento compiacente, senza alcun dibattito. Il governo le ha presentate martedì e Yanukovych le ha affermate venerdì. Una democrazia più controllata di così è difficile trovarla nelle ex repubbliche sovietiche, se non nella Bielorussia del dittatore Lukashenko, della quale in effetti una buona parte della normativa antisommossa è stata ispirata. E questo è un estratto dell'articolo dal titolo La terra di nessuno, che parla dell'Ucraina. Un'altra intervista che vi segnalo è apparsa sulla stampa, l'intervista allo storico Stéphane Courtois: Mosca non mollerà mai l'Ucraina e la sua storia, l'Unione Europea ha voltato le spalle ai giovani. Ve ne leggo alcuni passaggi. È difficile dire, quel che è certo è che la situazione economica finanziaria del paese è terribile e molti hanno capito che al di là di un arruolamento nelle varie mafie locali non hanno alcun avvenire. La protesta si è drammaticamente radicalizzata. E allora l'intervistatore chiede: come si spiega questa radicalizzazione? Io credo che molta colpa ce l'abbia l'Unione Europea, tanto più perché i manifestanti hanno guardato con speranza l'Europa fin dall'inizio. Purtroppo la diplomazia europea non ha recepito il messaggio. Catherine Ashton sembra non essersi accorta di nulla. Anche gli americani si sono disimpegnati e la Francia è assente. La sola ad aver avuto delle reazioni ferme è la Merkel. In questo contesto i ragazzi delle piazze di Kiev si sentono soli e Putin ha la vita facile. Questo uno degli articoli sul tema dell'Ucraina. L'altro argomento riguarda invece la Serbia. La Serbia e il suo processo appunto di adesione all'Unione Europea. Per raccontarvi come sta andando, abbiamo scelto un focus dell'ANSA di martedì 21 gennaio. Una Serbia attiva e dinamica, la cui immagine internazionale è radicalmente cambiata negli ultimi anni, si presenta a Bruxelles all'avvio del negoziato di adesione all'Unione Europea, un risultato reso possibile dagli innegabili progressi compiuti dal paese balcanico nel processo di democratizzazione e ammodernamento delle proprie strutture statali, che hanno consentito alla Serbia di lasciarsi definitivamente alle spalle un pesante passato segnato dalle guerre sanguinose che hanno sancito drammaticamente la fine della vecchia Jugoslavia socialista. Belgrado ha definitivamente chiuso il capitolo doloroso dei conflitti armati degli anni 90, consegnando al Tribunale Penale dell'Aia gli ultimi criminali di guerra richiesti dalla giustizia internazionale. Tutti i fatti questi che hanno convinto Bruxelles dell'effettiva volontà della Serbia di girare pagina e avviarsi sulla strada che la porterà nei prossimi anni a divenire membro a pieno titolo dell'Unione Europea, seguendo le orme di Slovenia e Croazia, unici paesi della ex Jugoslavia ad essere entrati finora nell'Unione Europea. Prima di salutarvi, una notizia in chiusura: la sonda europea Rosetta si è risvegliata. Vi abbiamo preso un articolo dal Corriere della sera del 21 gennaio. Il primo segnale alla Terra è arrivato dopo 31 mesi di ibernazione, un segno di vita al centro di controllo dell'Agenzia Spaziale Europea, che si trova in Germania dopo una lunga attesa entro l'orario previsto. Poi l'applauso e l'entusiasmo. Da questo momento in poi la sonda si prepara a raggiungere la cometa, dove atterrerà a novembre. La sonda dell'ESA e i suoi strumenti riveleranno i segreti e le origini del sistema solare. Ed è con questa buona notizia che concludiamo la rassegna stampa europea. L'appuntamento è a sabato prossimo. Buona giornata da Cristina Carpinelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.